trista voce desceti in ta nottata, mentre ta strigne o sposa tuoi vicina, statte scetata, si vuoi sta scetata, ma fa dorma sonna china, non chi vicina e l'asta lo fa spia, perché non può sbaglia sta voce è a mia, è la stessa voce è quando tutte sta voce te canta in tuo cuore, quella che non te cerca e non te rica, tutto dormiente e non lontano amore, tutto l'amore e non dormiente. Sta voce che chiagna in ta nottata, te scelto sposa, non ave paura, vira l'essenza non asernata, rilla che dorma e che sarà sta lì, o sarà pace.